Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Che bello il termine accoglienza e che suono sinistro ha il termine respingimento. Pensavo mentre mi preparavo per andare al lavoro. Poi mi incammino per via Zamboni, in centro Bologna, e vengo apostrofata da un ragazzo africano che brandisce una confezione di fazzoletti di carta. Poverino, penso. Come farà a vivere in una città cara come Bologna? E gli allungo 2 euro. Entro in un bar, prendo un caffè ed ecco un altro africano con i soliti fazzoletti. Gli offro un caffè. 1 euro. Esco dal bar e mi incammino di nuovo con alle spalle un africano che mi chiama «Mamma, mamma!» e mi offre un libro. Ho finito gli spicci e mi limito a scuotere la testa sorridendogli. Uscita dal bar, vedo da lontano altri 2 africani e attraverso la strada, ma non riesco a evitarne un altro che invece mi sbarra la strada e mi costringe ad una brusca deviazione. Nel frattempo, questo nugolo di africani non importuna solo me, anziana signora, ma imperversa con gli studenti e le studentesse a colpi di «ciao amico», voce canterellante e allegria ostentata. Rimango sempre stupita dalla gentilezza e dalla pazienza che dimostrano gli studenti che stanno andando a lezione o a fare esami. Quando l'ottavo africano, li ho contati, mi si para davanti per fermarmi, sbarrandomi il passo, la pietà e la comprensione sono definitivamente tramontati, lasciando il posto a istinti violenti verso chi si permette di limitare la mia personale libertà di camminare per strada indisturbata. Spaventata dai miei stessi istinti omicidi, mi autoanalizzo. Ho paura? Niente affatto. Sono razzista? Non credo. E allora? Ecco, ci sono. È il solito problema mal posto. Cosa c'entrano il razzismo, l'intolleranza e tutte le questioni teoriche che si tirano fuori in queste occasioni? È solo una questione di civile convivenza. In una città civile, come era fino a qualche anno fa Bologna, non era neanche pensabile che gruppi di persone inseguissero altre persone per chiedergli aiuto. Erano situazioni che si vedevano a Nuova Delhi o a Calcutta e facevano parte del colore locale. A tutt'oggi basterebbe che qualcuno dei 600 vigili urbani di Bologna facesse capire con gentilezza ma con fermezza a queste persone che non possono scorazzare per il centro della città disturbando i cittadini e far così smettere questa situazione incresciosa. Insomma, prima di accogliere, mettiamo ordine in casa nostra, come si fa quando viene un ospite gradito. Poi vengano pure gli stranieri e fondiamo una società multietnica e multieducata. Laura. Conosco abbastanza bene il mondo dell'immigrazione, in quanto da oltre 8 anni mi avvalgo dell'aiuto di badanti per assistere mia suocera. Io sono in pensione da qualche anno, ho avuto 3 figli, ho lavorato 38 anni ed ho assistito ed assisto, in ordine di tempo, mia madre, deceduta, mia suocera, 88 anni, invalida al 100%, mio padre, 92 anni, ancora autosufficiente. Avrei potuto non avvalermi di una badante nelle mie condizioni? Non credo. Abbiamo dato lavoro sempre a badanti ucraine entrate in Italia con regolare passaporto, con visto turistico, che regolarmente lasciavano scadere. Trovavano lavoro molto facilmente perché, ad esempio, nella mia via vi sono 5 ultra novantenni, 3 assistiti da badanti e 2 ricoverati in case di riposo. In paese il numero di badanti, per la maggior parte donne, ma ora si vede anche qualche uomo, è sempre andato aumentando, così pure la volontà della maggior parte delle famiglie di regolarizzarle. Nonostante la nostra volontà di farlo, pur assicurandola, in un certo senso garantendo noi famiglia per lei, pur pagandole i contributi e lei stessa contribuendo a pagarli per una parte, ci è stato impossibile regolarizzarla per lunghissimo tempo. Ci sono voluti la bellezza di 3 anni e mezzo. E sapete come ci siamo riusciti? Con l'ultimo click day del 18 dicembre del 2007. Siamo riusciti ad inoltrare la nostra richiesta di regolarizzazione via email, entrando per il rotto della cuffia nei 170.000 posti disponibili nell'ultimo decreto flussi in tutta Italia per la regolarizzazione. Le restanti badanti nel mio paese sono rimaste escluse perché, sfortunate loro, non avendo in famiglia un esperto in computer, si sono appoggiate ai vari patronati, sindacati, eccetera, per l'inoltro delle loro richieste, rimanendo così escluse. Una lotteria, insomma. Da quel lontano 18 dicembre 2007, Oksana, la signora che lavora presso di noi, si chiama così, sta ancora aspettando il permesso di soggiorno definitivo dopo che il prossimo 12 giugno sarà andata alla questura di Milano per l'ultima formalità. Il fotosegnalamento. Dalla Germania mi dicono che occorrono pochi giorni per ottenerlo. In tutto questo tempo ci sono stati richiesti documenti, marche da bollo, pagamenti, visite alle varie questure per solleciti e formalizzazione, ritiro nulla osta, eccetera. Una vera vessazione e perdite di tempo incredibili. Ora, con questa bella legge in discussione alla Camera e al Senato, le tante badanti ucraine che lavorano in Italia o che lo Stato chiama clandestine perché lui, Stato, non vuole regolarizzarle, potranno essere fermate perché stanno commettendo un reato. Il comandante dei vigili del mio comune le conosce tutte, perché noi familiari abbiamo sempre fatto sapere che avevamo in famiglia una straniera, ma che non potendola regolarizzare, garantivamo in qualche modo per lei. Che succederà a queste donne? Il vigile pubblico ufficiale le denuncerà? Sono madri di famiglia, lasciano bambini alle loro madri in Ucraina per poter sopravvivere. Se c'è crisi da noi, figuriamoci da loro. Hanno pagato dai 1.500 ai 3.000 euro per pagarsi il visto turistico, mazzette per ottenerlo, eccetera. Pagheranno le multe salate che si legge in giro? Subiranno il processo presso il giudice di pace? Le butteranno fuori dal paese? Le famiglie per le quali lavorano, come assisteranno i loro vecchi? È proprio vero che questo Stato è forte, anzi cattivo, con i più poveri e tollerante con i più forti. Ma cosa è successo agli italiani? Una spiegazione me la sono data leggendo i commenti sui vari blog ed interventi alla radio. L'Italia, soprattutto quella del Nord, ben pasciuta e ricca, è razzista. Tina. Ieri mattina ho ascoltato un commento del direttore in merito all'osservazione di un ascoltatore sul costo della vita e del caro euro. È vero che siamo competitivi a livello internazionale in quanto al valore dell'euro, ma è anche vero che per noi cittadini italiani il potere d'acquisto è dimezzato. Spesso siamo invitati da politici incoscienti a spendere senza preoccuparci troppo della nostra condizione economica, affinché l'economia del paese possa riprendersi. Premesso che non ho nessuna fiducia in loro per quanto riguarda la soluzione dei veri problemi della bassa plebe, sono alquanto curioso di vedere cosa faranno finta di fare e quante balle racconteranno ancora per continuare a tenere sotto controllo quell'ammasso di creduloni che andranno di nuovo alle urne a manifestare loro fiducia. Loro, quelli della casta, se la rideranno per il successo avuto in qualità di incantaserpenti e la bassa plebe ancora in cattività continuerà ad aspettare a bocca aperta che arrivi la soluzione adeguata alla sua condizione. Poveri illusi. Un appassionato invito dal sottoscritto al popolo è 1. Non dormite. 2. Cercate la verità. 3. Vagliate le notizie che arrivano dai mezzi di informazione. Caro direttore, la prego di spiegarmi chiaramente, senza giri di tante parole, a proposito dei prezzi lira-euro, chi doveva tenerli sotto controllo? La politica? Il sindacato? Il Codacons? Nessuno. Chi? Aspetto la sua esauriente risposta, firmato. Vostro assiduo ascoltatore. Gentile assiduo ascoltatore, innanzitutto non vedo perché non debba firmarsi, almeno con il suo nome, per inviarci le sue considerazioni, almeno in parte certamente di buon senso. Lei usa parole molto critiche verso la politica e i politici, ma vorrei rispondere soprattutto alla sua ultima domanda. Chi doveva tenere sotto controllo i prezzi nel passaggio dalla lira all'euro? La mia risposta è tutti. Doveva farlo il governo, di allora, con interventi per limitare gli abusi, soprattutto dove i prezzi sono fissati o controllati dai poteri pubblici. Dovevano farlo i sindacati, anche quelli dei consumatori, denunciando chi se ne approfittava. Ma dovevano farlo soprattutto i consumatori stessi e quindi tutti noi, evitando, se possibile, di acquistare a prezzi maggiorati. E peraltro, non è per nulla vero, anche se fa piacere a qualcuno come lei crederlo, che tutti i prezzi siano raddoppiati per l'effetto euro. Pensiamo al giornale quotidiano, costava 1.500 lire nel 99, la benzina poco meno di 2.000 lire, il caffè, a seconda delle città, tra le 1.000 e le 1.500 lire, tutti beni che ora costano un euro o poco più. Fatti i paragoni, aumenti ce ne sono certo stati e in 10 anni sono più che comprensibili, ma nessuno di questi prezzi è raddoppiato. E francamente mi sembra del tutto immotivato dire che per la moneta unica il livello di vita si è dimezzato. Non è vero, anche se è vero che alcuni prezzi sono aumentati più di altri. In quanto al suo appello a cercare la verità, non dormire e vagliare le notizie, sono perfettamente d'accordo. Ma allora dia il buon esempio, non dando credito ai luoghi comuni su argomenti così importanti come la moneta e i prezzi. In questo periodo sento che si parla tanto di spie. Spia sarebbe il preside che segnala iscrizioni di alunni irregolari, il medico che cura i clandestini, ai quali non viene comunque negato il soccorso. Insomma, mi sembra che si esageri nell'uso del vocabolo spia. A questa stregua si dovrebbe dare della spia a tutti quanti fanno intercettazioni telefoniche anche autorizzate, a tutti i cittadini che segnalano un comportamento mafioso, che denunciano un usuraio, a quanti segnalano magari maltrattamenti di donne conosciute o di qualcuno che evade il fisco. Ci sono voluti decenni per educare i cittadini a segnalare gli abusi e le irregolarità. Perché davanti ai clandestini che non hanno il diritto di vivere nel nostro paese dobbiamo avere un atteggiamento omertoso? Se le regole ci sono, dobbiamo rispettarle o non lamentiamoci poi di un'Italia allo sbando e insicura. Che discorso disumano, vero? E se poi quel clandestino, non avendo alternative, causa per disperazione guai pesanti a carico di qualcuno, la responsabilità chi se la prende? Dobbiamo forse fare tutti come le tre scimmiette e vogliamo essere cittadini che piangono poi come i coccodrilli? Sandra. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.